provincia di Modena. 1903, un prete e la sua perpetua. Cumela cag Samsol Nueter? Samenga. Cusani da fer, sani mengacle al de dal signor? Il savran, ma iaran pensenir più terd, per la messa. Se viene in più terd per la messa, a vuol dir che ingammenga la coscienza pulita. Però neanche sporca, S'ha dito? A di chi ganno un comizio. Un eter? Va là che in su con che lor basteva menga la delusione delle tradmanga. Ma s'le ha l'unic de che spolen incontrer che si incontren. Tutti a terdegan da lavorare. La dmanga i ganda per ger e da confseres per qual che han fatto et mel in drastmana. E guarda niente da confser. Sì, i preferesse in ciacarer. I ciacaren e i sfan degli dei sbagliedi a tal degme. No, perché sbagliedi? Perché i volen fer la rivoluzione che lor. Ma i volen menga fer la rivoluzione. I volen che tot si incompagna. La nemenga una rivoluzione questa che è? Chi venga in incesa, che sei chi in tot compagna? Menga sempre. Fleppa, sa dite, sa vot saver te che stai total dea filerna tuaia. Le proprie perché stai total dea filerna tuaia o l'insol. Che dic che è importante trovarsi a ciacare. Perché te ciacare et menga basta? Ah, parlando del tempo. Parlando del tempo, Clemei, che te infegnir la fotta. Ma no, no, avliva dir che parlam sempre del tempo. Menga, qualche pensam. Sa vot pensare anche a te, vot fer la rivoluzione. Tenal se menga cal signor am vol menga cas faga da revoluzione. Noster signor al ferma tot prema a tarcor menga le trasmana quando vliven fer letter cumezi e tot vueter preocupe a geranca ot carabinier du chiegnu da Modna du da Spilamer quater da Castelverde tot un movimento tot a San Viso sovra ma per cosa per cui le i cos come a ciamen i socialisti i socialisti gli hanno appena delusione. Nostro signor la fa gnir al brottempo. Ah, da come la gniva. Le trastemane la gniva forte. Tutta la gente a ca. Poveretti socialisti, come te ciante. In pensave menga che la dmanga la sdav dedichera a signor? La dmanga anche i socialisti gli hanno da gnir in cesa. Ma i vine un sempre in cuore, i vine menga confessere. Vimmo che cat confeste, am sembra cat faga bene. In nomine Patris et Fili et Spiritus Sancti. Amen. Demo, set fat et mel. Et mel? Non fa niente. A fac sempre quel tot idea. A vaga lavorare quando ancora le ho. O l'altra settimana che era sempre la nebbia. L'ha vista la nebbia. A me ne va a lavorare con Alfred e alla nebbia. Ecco, ecco, anche vivo sempre di mandi voi a fare, però tutti i mattini a giro. Oh, e mandet che vuole inferna sì. Ca. È vera? Ah, ma i disen. Ma sa volni feresti su celesta, demo con chi la ni so? Con nessuno. Ma allora, perché volni ferna ca? Ma va la menga ben sta cesa? Ma i volen ferna ca da incontrer, sfer quelli insami, ciacarer. Se i volen ciacarer, perché n vinni menga con feres? I volen ferna ca per zugher, fer di festi. Ecco, i po. E po? I po, e poi quang quel che va menga a parlare contro il padron. Ah. Avemmo, te tal sei qual che vuole fer teste da un cumezzi? No, me, a stac sempre lontana dal cumezzi al sol, so, signor che piace menga, me l'han con te. Ma chi t'la con te? No, nessuna con te niente. In piazza. Gara della Zencla parleva e mi son stata ad ascoltare, però avliva menga sentir niente. Le togno dentro da per loro. Sagivni, sempre quel contriprete la cesa? No, e a menga parla della da cesa. Da bon, ambala un occio. Ghera di mandi gente in piazza. Quattergente. Sì, anche più. E nel menga un cumezzi quasche chi parleva. Ma Marco Ormenga, aspetta un attimo, c'è me il Marverti Cesare. Chi sei, l'Unet Spilambert? No, Alvin da Soliera, un sindacalista. No, no, no, ma la gente era in quasi tutti di braghere, che volevi sentir la novità, la cala, Cosa viva me, i volen cambiare tot, ma cosa che a San Vicamba menga bene, i vanno a ferna ca, I vanno a fare la rivoluzione, i sogni rapio incesa. Oh no, l'ignoralista. Fè preste, i bracciante, gli in tutti maniagati. Adesso in scontente, menghe di maniarigati, vuole neanche manier di preta, tal di me. Beh, andami avanti con la confessione. No, le compagne, ah. Trovine. Aspetta, aspetta. Met con te dal foli. No. Sta attenta, che nostra signora al vad e al bastona. Mia, dic sempre la verità. E te dit che per la messa i vinen? Sì, per la messa i vinen tutto. Spera, ma il sper per te? I vinen, anche al tempio è buono. Oh, sì, con le calde, oh, le tre settimane, che freddo. E che nebbia, me tutti i mattini. E tutti i mattini a lavorare con Alfred e alla nebbia. Ecco, Stes, un po' che me stufè. Stammi in silenzio un po', eh? Vabbè, intanto aspettiamo, a ben disla i patacchi. A mezzanotte in punto si sente un gran rumore, sono gli scariolanti, le riderà che vengono al lavoro. E torna rivolta, noi siamo gli scagliolanti. 1904, un comizio e una tombola. 13, 16, 33 gli anni del Signore, 81. Cari concittadini, siamo davanti ad un momento storico. Io non riesco a nascondere l'emozione e la trepidazione. 23. Non è mica facile trovare i parole giusti. Ma deg che quaste 1904 sarà un anno indimenticabile. Oh, la Madonna! Oh. Per la comunità di San Vito, la nascita. 77. Di una cooperativa di consumo. I diavoli! Rappresenta la costruzione di una fortezza che fa da protezione ai lavoratori. 44 la prigione. 71. Questa cooperativa avrà il compito di regolare i prezzi. 79 ladro. Di vendere all'ingrosso della merce sana. 85. E soprattutto di dare solidarietà ai lavoratori. Quando vuete fev la lotta contro il padron. Quando fate gli scioperi. La prigione 40. Hai già detto. Ah, 48 il morto che parla. Vabbè, voi avrete in cambio dei buoni credito per ritirare dei prodotti. I peli 50. No, l'olio, la legna, al pane, al salame, al pita, all'ambrosca, 27. A sé, oh, a menge fam nessuno. E noi resistiamo un dead più rispetto ai padroni. I pali del ma basta, tenente. Basta. I pali del tenente 30. Niente. Basta con il fumo delle osterie, basta con l'umidità delle aie. Patapim patapem il bro tempo 83. E basta con l'incenso delle chiese. Voi avete il diritto di associazione. Cinquina. E allora io vi dico, incontratevi per fundere insieme, per fondare assieme quelle che sono le basi di una nuova società. 90 la paura. Solo così questa casa sarà per tutti. La chiesa 84. No, la casa del popolo. No, 84 la chiesa, 84. Solo qui noi possiamo dare inizio alla concretizzazione del nostro comune sogno socialista. Oh, 19. La risata. Cari compagni, Savlivka Degades, Getter da Fer, se non aspettare. 40. Aspettare. Ma aspettare cosa? Che cosa? Che il nostro sogno si realizzi. 40 la noia. Vabbè, lascio la parola al mio di dietro. Tombola. Sur padrum dali belli breghi bianchi, ferli palanchi, sur padrum dali belli breghi bianchi, ferli palanchi, gandumaha. Ascusa sur padrum, salem patribuleri, eran li premi volti, ascusa sur padrum, salem patribuleri. Eran li premi volti, cansai e un cuva fer. Sur padrum dai belli brei bianchi, ferro li palanchi, ferro li palanchi. Sur padrum dai belli brei bianchi, ferro li palanchi, gandumaca. 1907, in una casa di campagna, un fratello e una sorella. La per l'ore tourner? Ah, so, scusa, si è fatto tardi. Ma in due steda. Ah, la cooperativa. Ancora? Ma dovevo comprare i patacchi, se no mangi niente, eh. Perché te fai sempre alla cooperativa? Costano pochissimo. Pensa che costano la metà, che dal contadino. Ai soci. Anche il pane costa meno. E poi in due steda, fora le orba. Notte. Perché è inverno, ma sono steda lì a parlare. Al Ciacri fa menga la farina, eh. Alla Finlanda vogliono aumentare il lavoro a 16 ore. E allora? Allora, mi sono informata. Informai di cosa? Dei nostri diritti. E cosa capisci te di diritti? Niente, è per quello che mi sono fermata alla cooperativa. E demo, se ti imparè? Mi hanno detto di associarmi. È tan per cambiare. No, non è come pensi, dicono che ci tutelano. Sì, e da cosa ci devono tutelare? Ma dal padrone. Senza il padrone, anche menga al lavoro, vuol stare a letto. Non lo so. Lo so io, con la scusa della cooperativa, e ti vuole inciapere di soldi. Sì, può essere, ma dicono anche che non lavorano per loro, ma per gli altri. Ti dicen, e te tal crad? Ma perché no? Ma perché? Al Valpio un fat che sei in da fer. La sena in duela. Sì, adesso arriva. Dicono anche che i soldi, no, non servono per i bisogni individuali, ma per quelli della comunità. I dicen. Tani det cal famni gandaster in ca? No. Sono un po' più moderni. La taldeghi in italiano, allora. Le donne devono stare in casa. E invece puoi uscire. Tete troppo zovna. Ma se sono più grande di te. A di che testa. Tete troppo ingenua. Continua ad andare fuori a ciaccherer con di briganti e vedrete sati in per. Ma chi sarebbero i briganti? Su celesta, il givank nostra medra, poveretta. No, poveretta, ma cosa vuoi che capiva lei dei socialisti? Ripeteva quel che diceva il prete. Sì, infatti, era più saggia di te, di me, Sinsam. Più prudente. E beh, dovresti esserla anche te. E star più tempo in ca e menga fer preoccupare tuo fratello. Ma di cosa? Ma non esco mai. Ah, svate, sempre fora a ciacarer con di delinquente che ti fan crader che tu ti incompagni. Che al padrone le compagna il lavoratore, se. Che l'uomo le compagna la donna. Beh, e il cosa c'è di male? Che gli menga compagna. Ma l'hai visto un can compagna un gat? Me mai. L'uguaglianza è una folla, qui lei che ti conta che tu ti incompagni, gli indibrigante che ti vuole inciaper di soldi, e te sei una boccalona, sempre te bavto. Ma io non mi bevo niente, però mi piace pensare che tutti abbiano delle scarpe buone ai piedi e che tutti, tornando a casa, possano trovare un piatto di zuppa calda. Io invece torno, me la devo fare. Santa la Madonna, ma te la devi a fer me? Oh beh, vedi qualcun altro. Son ste tutta l'dea lavorera, son sto. Anche a me, però quando torno, zitta e buona, continuo a lavorare. A te quella cooperativa ti fa male, ma se ti vedesse nostra medra, come ti cambiede, te una danna. Ma ti ricordi la mamma, quando è andata dal tuo padrone? No. Ma dai, sì, quella volta del martello eri arrabbiatissimo con lei. Com'era andata? Che al padrone al madè un schiaff, com tutti dè. Ma me quel dè, io tirai al martello che aveva in mano. Ah. Ma aveva fatta rabire. E poi sono tornato a casa, io con te tutta la mamma e lei zitta la ma pur tre indre dal padrone. E con l'ola ma difesa, ma poi a casa, vigliac. Brigante. Tu tenghe voi a far niente. Sì, come osi ribellarti al padrone? Come hai osato? Era un putain. No, tu eri un bambino. Ma la mamma aveva un'anima da schiavo. Offendere nostra madre. Il padrone ha il diritto di comandare, ci diceva. Noi, obbedire. Era saggia. Per nuetere, povrette, le mei obbedire. Ma la mamma faceva la sarta. Non usciva mai di casa. A noi. Diceva di sottostare al padrone perché per lei era l'unico modo per migliorare la vita, perché era ignorante. Ma io non voglio far quella vita di schiavitù né fuori né in casa. E sa vot fer? Ma non lo so, io avrei tanto voluto studiare. Ma chissà, magari la maestra. Ag voleter. Infatti, ag voleter, anch'io non faccio altro che filare. E metti a bollire i bachi e fai ripartire le filatrici. Guai se rallenti il ritmo. Vapore, caldo, puzze. Io non ne posso più di sta puzza di marcio. Di stare tutto il giorno con le mani nell'acqua bollente, sempre controllata, sempre in fila. Vabbè, sotto se il bastone. Ma non hai voglia di lavorare. Ma non c'entra la voglia di lavorare. E allora qual è il problema? Prima lavoravi in campagna e t'andeva menga bene. Non quasi non mi pagavano per forza. Beh, adesso ti peghen. Ma che troppa possa? Che è il distinzione? A c'ha fatica. Ma non mi fa fatica, però il lavoro è duro e non è giusto che lo vogliano aumentare. No, non le menga giusto. Ma guarda, ma almeno con le altre ci capiamo, alla cooperativa dicono bene. Insieme siamo forti, dobbiamo fare sciopero. Sciopero. Sciopero. Ma mamma, mamma, e sentì, l'Aldina lavora per sciopero, ma roba da ma. Ma ci vedi? Gavim niente, gavim solo al bacarlot per scalder la ca e te te vuoi fare la rivoluzione, Ma metta per me, la fag menga mantenerti, capì? Aldina, io da solo non ti posso mantenere. Dobbiamo fare la fame per il tuo sciopero. Ma non è il mio sciopero, Lavoriamo come schiave, ci pagano una miseria. E poi tutte sciopero. E invece te vai a lavorare. No. Se le mie compagne non ci vanno, ma io non ci vado, ma piuttosto muoio di fame. E tal di perché un pezzo è panta al cat sempre a ca, Ma non pensi che così me lo togli a me? Ma tienitelo. Ma non si vive mica di solo pane, Ma bisogna fare qualche sacrificio per vincere. Vincere? Ma come descaret? Mo sa dit. Ma vincere? Ma perché sarà una vittoria, no? Se ci pagano quello che ci meritiamo. E tutti dovremmo essere d'accordo contro il padrone che ci sfrutta. Sì, ma se tutti sono come te, i padroni possono dormire tranquilli. No, dai, i padroni che insieme per te, senza i padroni ricchi, anche venga a lavoro per noi e poveretti. Ma perché lavoreremo per noi invece che per loro e smetteremo di essere sfruttati? E poi, anche Gesù era per i poveri, non per i ricchi. Sì, Gesù. Gesù, l'hai contato a Migli nel covo dei briganti che te credi in Gesù? Ma perché? Che male c'è? Gesù, c'è. Gesù è stato il primo socialista del mondo. Te sei proprio una boccalona, Tu credi a tutti il Bali Kate Conte? No, non credo. Io ragiono. Sei tu come la mamma che credi senza ragionare. E se si continua a star male per quelli come te, che non fanno niente, così non si va da nessuna parte, rimaniamo immobili. Fame. Ti ho detto che ho fame. E allora fatti da mangiare. Te mangia? Non me l'hai fatta passare. I parenti, il come al scherpi. Più gli in strec e più gli fa mal. E l'ora del caion la ven per tot. ...1925. comando di polizia, un fascista e una maestra. Un bicchiere di vino? No, grazie, sono di fretta. Ma è vino buono, non è mica ben sottile. Perché mi avete chiamato? Una consulenza. Mi potrebbe leggere uno di questi volantini, per cortesia? Seduta. Ci sono due vie per conquistare la serenità del vivere. Una di queste vie ve la indicano i fascisti, quella che riconduce alla vita di 20 anni fa, quando ciascuno di noi lavorava 16 ore al giorno, non si occupava di politica e non si ribellava mai al padrone. L'altra via ve la indichiamo noi, è la via della rivolta, dello sciopero, della difesa dei diritti, della volontà di ricostruire la società su quest'unica legge. Colui, uomo o donna, che non contribuisce con un lavoro socialmente utile non ha diritto a nulla. Com'è l'ultima frase? Colui, uomo o donna, che non contribuisce con un lavoro socialmente utile non ha diritto a nulla. Lei fa la maestra, vero? Sì. Ecco perché l'ha letto così bene. Sembrava che lei lo conoscesse. No, guardi, io non l'ho mai visto. No, ci credo. Intendo dire che si sente che lei è una donna istruita. Dove insegna? Ma dove capita, io faccio lezioni private. Private? Dunque lei non fa un lavoro socialmente utile. Ma lei come lo interpreta quel lavoro socialmente utile? No, non so interpretarlo. Figuriamoci, una donna colta. No, coraggio, mi dia un'interpretazione. Che cos'è un lavoro socialmente utile? È un lavoro che porta un contributo a tutti in maniera equa. Risposta fascisticamente non valida. In maniera equa, dice? Sembrerebbe un linguaggio socialista. Guardi, io non ci capisco niente di politica. Eppure mi dicono che lei insegnava la Casa del Popolo. Ma sarà capitato. Sì, ma non era in realtà una cooperativa di consumo? Sì, ma se io andavo là era solo per insegnare. Ai socialisti? Ai contadini analfabeti gli insegnavo a leggere e a scrivere. Ah, sì, e perché? Perché non lo sapevano fare. Ma che idioti. Ma voi intellettuali non capite che sarete voi a dirigere la patria in futuro e non gli analfabeti? Ma perché perdete tempo? L'istruzione è importante. Sì, forse. Ma perché alla Casa del Popolo? Ma perché era il loro luogo di incontro. Sì, ma per fare? Ma per parlare. E non per ascoltare? Dei discorsi sovversivi? Sovversivi? Io vedevo comprare patate. Brava. Le donne non si devono occupare di politica. La patria si serve anche spazzando la casa, o sbaglio? Dipende. E infatti dipende, e la patria non deve dipendere, la patria deve andare avanti. Senta, io lei non andare... vuole che la nostra patria vada avanti? Ma certamente. E allora lei, come li vede questi volantini? In che le sembrano un tentativo di frenare? No, non lo so. Ma non ci legge un sottofondo disfattista? No, disfattista forse. E allora perché parlano di ricostruire la società, mica è stata demolita? Si riferiscono alla guerra forse? Forse. Il noi a chi si riferisce? Non lo so, senta, mi stanno aspettando. Chi? Dica per quale... Suo marito, Lei è zittella. Questo tra l'altro denota un'incapacità ad ispirare dei sentimenti per difetti fisici o cattivo carattere. Lei cos'ha? Difetti fisici o cattivo carattere? Né l'uno né l'altro. Però è magra. Donna che pesa un'oncia, la propria casa sconcia. Il pensiero rende la donna isterica. Ma io non sono isterica. E allora perché mi guarda con quell'aria? Ma no. E allora abbassa gli occhi! Noi non vogliamo donne all'università. Noi le vogliamo nude, sul sofà, Ma non vorrà mica disertare il nostro comune obiettivo nazionale, 60 milioni. Il popolo, per essere forte, deve essere fecondo. Il numero è potenza, che contraddice è un fuorilegge. Fuorilegge. Eh sì, fuorilegge. Perché non ho figli. E perché senza figli lei non serve la patria. La maternità non si può imporre. Quanta ragione. Proprio per questo noi stiamo pensando di istituire una tassa sui celibi, così anche le donne anormali possono diventare socialmente utili, come direbbe il suo Valentino. Anormali. Io credo che certi discorsi in quella casa del popolo, a malavoglia, lei li abbia ascoltati. E sa, finché certe idee vengono coltivate da dei braccianti, da dei maniagati, la cosa può anche andare. Ma se per caso vengono insegnate, ma lei potrebbe corrompere con certe idee. Ma io non corrompo nessuno, trasmetto un sapere. Un sapere che incita alla rivolta. Che promuove i diritti. E anche il fascismo promuove i diritti. E allora perché avete soppresso il diritto di associazione e il diritto di sciopero? Perché? Perché lo sciopero porta alla demoralizzazione, perché lo sciopero porta alla paralisi della produzione, perché quando ci si aggrega ci si contamina. E poi, detto tra noi, se le masse fanno la rivoluzione, chi governa lo Stato? Il popolo. Quale popolo? I bifolchi? Ci vuole ordine, disciplina, rigore per gestire uno Stato, mica chiacchiere. Se fosse per voi, saremmo ancora qui immobili a domandarci rivoluzione o riforme? Riforme o rivoluzione? Così si invecchia e basta. Come voi, infatti, avete tutti i difetti della vecchiaia a partire dalla sordità. Lei è sorda o non vuole sentire? Io sento che non c'è più la libertà di pensiero, questa è la verità. La verità? La verità è che voi sovversivi volete corrompere il popolo con degli ideali utopici irrealizzabili e non fate altro che provocare del disordine, come il suo studente, quello che sparava all'impazzata su di noi. Quella sera. Lei mente. Nello Zanasi è stato scagionato in tribunale perché lei ha mentito. Nello Zanasi ha sparato su di noi. Nello Zanasi. Siete voi responsabili che volete tenere il paese diviso in servi e padroni. Ma se ci lasciaste la libertà, il popolo italiano potrà anche commettere degli errori, ma ha sempre dimostrato di sapersi risollevare e grazie alla casa del popolo stava anche cominciando ad educarsi. Ma voi volete ricacciarci tutti quanti indietro. Bene. Ma lei sa cosa va incontro? Tutti sanno che siete stati voi a bruciarla, ma tutti hanno troppa paura per dirlo. Tutti sono al nostro servizio, la giustizia, la polizia. Non potrebbe essere invece un segno di Dio? Questo sarebbe la volontà di Dio? Ridurre tutto a degli interessi privati. Noi sappiamo che cos'è una casa per il popolo e sappiamo anche come sono arrivati i vostri camion fascisti di notte, grazie ai capi della Grazia Locale. In pochi minuti avete distrutto anni di lotte, ma la pagherete cara. Che cos'è? Una minaccia? No, è una promessa. Che abbiamo fatto quel maledetto 19 luglio 1921, la nostra casa sarà anche morta, ma l'idea che c'era in quel luogo, quella, non la sopprimerete mai. Preferisce dell'olio di ricino o defecare sui volantini di sua volontà? Cielo e mare è la parola d'ordine d'una suprema volontà. Vincere, vincere, vincere ad ogni costo, nessun ci fermerà. I cuori esultano, son pronti a obbedir. ...1943. In una fabbrica di esplosivi, la Sippe di Spilamberto, un partigiano e una futura staffetta. Chi è dentro è dentro, chi è fuori è fuori. No, te, c'è Iris. E d'ora in poi il mio nome è il Modenese. Vabbè, non è una gran trovata, siamo tutti modenesi. Vabbè, Modenese. Well. Senti, hanno liberato, hanno preso la liberata Martinelli e le due Marie, Anelli e Barozzi. E dove le portano? Al Santo Eufemio, al confino te in fabbrica? Non le vedi di sicuro. Io lo sapevo che era troppo rischioso esporsi, eh. Erano della sipe agli esplosivi, come me. Cosa mangi? Ti va bene? Sei contenta? No, ma ho un figlio da crescere. E cosa fai te? E io sto ai binocoli, controllo che la polvere è intatta, che la cosa lì, la miccia, non sia difettosa. Controllo e passo. Controllo e passo. Ho sempre paura che esploda tutto. Lo sai che stai lavorando per la guerra? Il padrone ci ha chiesto 5 kg di esplosivo in più, ma non si parla tra di noi, si fa. Si fa per la guerra. Ma beh, ci ho anche aumentato il salario. Sì, però vi ha tolto il premio di 10 centesimi l'ora. Ma questa guerra finirà prima o poi. E intanto facciamo qualcosa per la pace, no? Pensa a tuo figlio. Ma io ci penso sempre, eh. E penso che c'è troppa confusione nel mondo. Io non voglio crearne di più. Voi donne dovreste unirvi. Ma non esistono gruppi di donne. Anni fa sì, quando c'era la Casa del Popolo. Beh, ora abbiamo troppa paura. Questa paura viene ricompensata? Sì, taci, era nella busta paga. Sì, quanto più tacerai su tutto quello che fai te, che fanno i tuoi compagni in fabbrica, quanto più presto sarà raggiunta la vittoria. Sì, ma non è la vittoria che ci immaginiamo noi. Ma certo che no, noi sembriamo delle carcerate. Noi stiamo organizzando uno sciopero generale. No, io non ci credo. Se il governo vuole la guerra, non ci resta che chinare la testa. Chinare la testa, sicuro. Lasciarci tirare il collo come dei capponi, ma dobbiamo lottare, Dio buono! E non bestemmiare, eh? Lottare, lottare. Ma come? In ogni modo, cominciando intanto a promuovere la lotta e non la rassegnazione al macello. E facendo sentire che noi siamo contro la guerra, sostenendo i comunisti. Che sembri un comizio. Ma tu vuoi la guerra? Ma certo che no, ma se quelli hanno deciso di farla, nessuno la potrà evitare, eh? Dire di non volerle stare immobili è come volerla anche voi donne, potreste fare qualcosa. No, sì, con le dimostrazioni, come quelle al confino, eh? La Barozzi, no, la Martinelli. Voi donne potreste essere molto utili come tramite. Come tramite, come tramite. Ma che cosa vuol dire? Come tramite? Vieni con me, dai, accompagnami. Allora, ognuna di voi dovrà avere degli incarichi differenti. Chi porta le circolari, chi porta i giornali, chi porta i vestiti. Scegliti un nome. Ghirlandaina. Ghirlandaina, corto. Senti, Ghirlandaina, per fare questo lavoro bisogna essere volontari fino alla morte, perché i nemici dappertutto, sì, anche in famiglia. Ti è chiaro? Sì, più o meno. Vabbè, dai, cominci da subito. Porta questo a Samuele. A Samuele, lo devi Samuele nascondere. Sì. E se incontri un tedesco? Vabbè, qualcosa inventerò. Anche da bambina. Ma io non giocavo mica a farmi rapire dal nemico, eh. Combattevo, assalivo. Non è un gioco, devi stare attenta ai crucchi. Samuele, Samuele. Ho una lettera dal Mudnes. Settembre 1943. Italiani, se volete la pace, agite subito aiutandoci a liberare l'Italia dai tedeschi. Lavoratori nelle fabbriche, non costruite più carri armati esplosivi per uso dei tedeschi. Agricoltori, mettete al riparo tutti i vostri prodotti per uso dei soli italiani. Oh, et capì? Sì, nascondere tutto, grano, frutta, la verdura. Te come ti chiami? Io, Stella. Cocca, dobbiamo eliminare la monarchia, tanto più che il re le scappè. Quindi tutte le armi che te trovi, le devi portare a Geminiano, come il santo. Sì. Geminiano, San Geminiano, il nostro patrono. Sì, Cocca. Ottobre. Ti consegno la mia rivoltella. Che cosa me ne faccio? Nascondila, non di là. Ma io ci devo andare. È pieno di tedeschi. Dirò che ho smarrito le pecore. Uno può aver perduto le pecore, no? Sì, ne sono, senti. Se ti fermano butta tutte, è rischioso. Non ti preoccupare, sono una donna, eh? E non sono da buttare. Novembre. Noi non vogliamo fare politica. Politica significa corruzione, immoralità, falsità. Noi vogliamo degli uomini dal carattere solido e dalla sincerità cristallina. Noi. Ma tu? I gruppi d'azione. Stiamo sfiancando il nemico con armi, sabotaggi. E quel ragazzo l'ha morto. E dai, non stare a pensare. Ma come dai, siete stati voi? Ma se ci fermiamo su queste cose, non si va avanti. Dicembre. Gennaio. Sto morendo di freddo, non è, non ma è che io, potrebbe... Io non so da che parte sta lei, ma io non voglio avere a che fare con nessuno. Ma è solo per sono una fatti notte. Suoi, a me non mi importa. Però se va là in fondo, dietro la casa del contadino, c'è un piccolo rifugio e c'è anche una coperta. Uè. E com'è che è diventato antifascista? A me i fascisti in tam rabbia. E te, staffetta? Un giorno, sì. Sono partita con un incarico, non mi sono fermata più. Volantini, viveri. Ci sono degli ebrei da aiutare, te la senti? Ma per forza. Febbraio. Marzo. Ma sei un idiota, lo stavo ingoiando. Beh, i biglietti me li dovete dare chiusi, perché io non li voglio leggere, perché se mi capita qualcosa non vi voglio far del male, perché si dice non lo faccio, non lo faccio, ma poi quando uno è sotto tortura non sa quello che può dire. Posso venire alla riunione? Hai letto il biglietto? No, e me l'ha anche con te, posso venire? No. Faccio la resdora anche da partigiana. Guarda che tante, come noi, sappiamo anche parlar bene. Ma tante come voi chi? GDD, gruppo di difesa della donna. Combattere il fascismo e liberare la donna. Noi non abbiamo neanche il diritto al voto, siamo proprio delle bestie. Beh, cominciamo ad essere tante, sai, e ci troviamo sull'argine. Argine? La luce viene dall'Oriente. Io quando finisce la guerra vado in Russia. Poi vengo anche... Ah, che in Russia è fredda, È meglio, tempra il fisico. Laggiù, operai, contadini e intellettuali collaborano insieme per la vittoria. Stalin ha ragione. Chi sei, Lune Spilambert? Ma no. Alvin da Soliera. No, Alvin dalla Russia. Ah, beh, vabbè, questo Stalin vuole la guerra? No, vuole sconfiggere la guerra con la pace. Allora viva Stalin. Aprile, maggio... Giugno 44. Che strada hai fatto per venire? Sono passata da Piumazzo. Da sette cani dovevi passare, deficiente. Senti un po', te sei il comandante, ma guarda che tu hai bisogno di noi, che voi senza di noi non fate niente. Il PC organizza delle spedizioni per la montagna e ritrova a San Vito, dove c'è la casa del popolo. A proposito, quando finisce sta guerra la dobbiamo ricostruire. Ma non ce n'è più bisogno, noi a Montefiorina abbiamo fondato la prima repubblica partigiana che durerà finché tutti i laghi dell'Appennino saranno prosciutti. Luglio. Armando, hanno messo fine a Montefiorino i tedeschi. Vacca boia. E allora dobbiamo definire un nuovo assetto tattico. Sì, ma te la senti di continuare? Ma per forza, sarà mica la violenza dei tedeschi a fermarci, dai. Avanti, agosto. Settembre. Ottobre. Novembre 44. A nome del comandante supremo dell'esercito alleato, patrioti, la campagna estiva condotta fin dopo lo sfondamento della linea gotica è finita. Inizia ora la campagna invernale. Il generale Alexander ordina quanto segue: cessare le operazioni organizzate su larga scala, rimanere immobili, attendere, stare in guardia. Un secondo inverno di guerra in attesa. Attendere. Cioè, un secondo inverno di guerra in attesa, immobile. E fra gli insetti e le zanzare un duro lavoro mi tocca fare. Mamma mia, oh che tormento, oh bella ciao, bella. 1948, in piazza, due militanti comunisti. Ma Saffetti, ma secondo te? Per al momento? Ma perché no? Oh, non c'è più nessun fascista, possiamo aprire le danze. Abbiamo perso e te balli? Boh, cosa dovrei fare? Portare il lutto? No, però... però te sembri felice. Io lo sono, comunque siamo liberi. Dopo tutto quel che abbiamo fatto per essere liberi, ma perché non fanno i conti con il passato? Ma è troppo recente, non lo capisco. Dai, fammi provare due passi. No, dai. No, ti supplico, dai. No, ti prego. Dai. Scusa. Vabbè, sì, è una tinca. No. Avevamo in mano il paese, potevamo fare tutto, invece niente, eh? La Chiesa è ancora forte. Sì, lo è, però qualcosa è cambiato, eh? Prima votavate solo voi, adesso anche noi. Oh, prima eravamo clandestini, adesso possiamo stare in piazza a ballare. E a San Vito? No, in tutto il paese. Ma non la pensiamo tutti allo stesso modo. Ma meglio, vuol dire che siamo in una democrazia. E poi noi dobbiamo partire da qui. Dal piccolo. Sì, ma guarda al di là di questo piccolo. Noi comunisti qui in piazza siamo la maggioranza, ma fuori di qui, eh? Sono tutti per la democrazia cristiana, eh? Ma io dico, ma non dovevamo fare la rivoluzione? Guarda che la stiamo facendo, eh? Un passo avanti. E due indietro. E allora noi faremo tre passi avanti, la rivoluzione, alla nostra fantasia. Va bene, allora rimaniamo ancora nei boschi, tra gli elfi e le fate. Abbiamo sempre fatto. Stare tra gli elfi e le fate. Ma no, di usare la nostra fantasia. Cos'è cambiato adesso? Niente, niente. Aspettiamo sempre che le cose cambino perché cambiano dall'alto. Ma invece tocca a noi, è colpa nostra, non è colpa di chi fa la politica. Insomma, per crescere qualcosina dall'alto deve anche arrivare. Il comunismo fa paura. O forse non è così immediato. Senti, ricordami perché lo facciamo. Ma perché lo facciamo? Ma perché non ci piace quello che abbiamo intorno. Sì, è per questo? Ma in pratica, sì. E a chi interessa sentire le nostre idee? A me piace. Sì. Passiamo le nostre giornate a immaginarci un futuro per chi? Per te e per me? Vabbè, potevo andarti peggio, potevi rimanere da solo, eh? Io sono totalmente disilluso. Ma non è facile, ti capisco. Specie se la vittoria sembrava così vicina, ma si è solo allontanata. Oh, senti, lo sappiamo, che è dura cambiare il mondo. Ci vuole audacia, ci vuole fantasia, non ce l'hanno mica tutti. Beh, io neanche. Beh, la tua quando è finita? Me l'hanno azzerata. Ma chi? Gli altri. Ma gli altri chi? Dipende da te, Ma poi scusa... Ma tutti i nostri parenti, gli amici, i compagni, tutti quelli che abbiamo perso, a loro non ci pensi? Alle lotte che hanno fatto per noi, ma che cos'erano tutti dei coglioni? Non lo so. Invece lo so io. Guarda, ci fa bene avere perso le elezioni, che almeno non diamo niente per scontato e la smettiamo. Con questa presunzione di sapere tutto noi, ma il mondo va avanti con o senza di noi, siamo mica più intelligenti. Però abbiamo fatto una scoperta, e c'è chi ha scoperto il manganello e chi l'altare, noi invece. Abbiamo scoperto che in fondo siamo tutti uguali. Sì, sì, sì, a parole. E con cosa allora? Manganellate? No, ma manca il clima. Il clima tra noi compagni c'è. Molti non lo sentiranno, molti non saranno d'accordo, molti non saranno neanche interessati. Ma non per questo la scoperta varrà meno. Ma poi insomma, ma qualcuno disposto ad ascoltare prima o poi arriverà. Sì, chi? Chi? Chi è più disposto ad ascoltare adesso? Adesso che abbiamo tutto, la libertà, i diritti, quelli che volevamo, senti, dai, facciamo come gli altri, facciamocene una ragione e viviamo di rendita. Ma basta. Quale rendita? Oh, ma siamo nella miseria, è tutto da ricostruire. Ma poi, a te, non manca niente? Sì, sì, sì, che questo piccolo diventi grande. Dai, come si fa? A me me lo chiedi? Vedi qualcun altro? Forse ricominciando da capo, o forse rinunciando a stare in piazza. Ma sì, ma finalmente è nostra. Dei cristiani e dei piccioni anche. Poi però i piccioni vanno sugli alberi, i cristiani vanno in chiesa e noi ci ritroviamo sempre qui come dei disperati. Ma per forza noi nessuno ci vota. Tu quanto sei esagerato, nessuno ci vota. Senza un luogo non c'è forza. E senza forza non c'è vittoria, è semplice. No, è riduttivo, direi. Ma 40 anni fa, qui a San Vito c'era una casa che avevano costruito i socialisti. Mio nonno la chiamava il covo dei briganti, ma quella lì sì che era una casa per tutti, un luogo di uguaglianza. Dove facciamola rinascere, ricostruiamola. Ah, sì, sì, con che soldi? Ma io porto i secchi. Se non abbiamo due lire per far valer una scemia. Sì, ma due braccia sì, e porto anche la carriola. Con la carriola andiamo spediti. Oh, beh, cioè, se avessimo un camion faremmo prima, ma se la facciamo con le nostre mani, nessuno ce la potrà togliere perché è nostra. Dai! Dai! Vabbè, io un camion lo trovo. E allora io li trovo i mattoni. Usiamo la ghiaia del panale. Ah, gli arnesi ci penso io. Io porto la calce. Anche la maniera, ferme. Si fa il cemento, si fa anche la malta. Dei tavoli, delle scelte. No, mi manca qualcosa. Manca tutto. No, mi manca qualcosa che testimoni il passato, ma che ci ricordi anche il futuro che ci stiamo immaginando. Una scritta? No, un'immagine. Anna, alza le braccia. Stai fermina? Ecco. È un'immagine della vittoria. Ma arriveranno in mille, in duemila. No, sì, hai ragione, in 10.000 da tutti i paesi. Ah, sicuro, in bicicletta? Sì, io già se le vedo. Tutte le biciclette distese intorno alla casa del popolo. Sai, bicicletta al posto di zona. Una campagna di biciclette. E verrà anche Togliatti. Bicicletta non verrà mai. No, sì, verrà perché questa sarà la sede del partito. Qui noi faremo le nostre lotte. Io già me la immagino. Ci sarà un salone enorme e finalmente potremmo ballare, guarda, imparerai ballare, anche. Faremo il cinematografo, i dibattiti. Sì, vabbè, senti, questa sarà una casa per tutti, anche per il prete. Beh, al pretac pensam. Un'immagine della vittoria. E passerà, le orchestre di motori ne accompagnano i sospiri, l'oggi dove è andato ieri se ne andrà. Se guardi nelle tasche della sera ritrovi le ore che conosci già. Ma 2009, in un ufficio comunale, un assessore e un consigliere. Un'immagine della vittoria. Verso di lei un operaio, un contadino, un intellettuale salgono insieme su una strada in salita per spezzare le catene della sudditanza e suggellare la conquista dei loro diritti, a sostenerli sotto le gesta eroiche di cinque patrioti, Casalgrandi, Maccaferri, Orlandi, Terzi, Balestri, che vennero catturati e impiccati dai nazifascisti a Ospitaletto di Marano. Questa è l'immagine che ci ha lasciato Veldo Vecchi sulla facciata della Casa del Popolo, progettata dal fratello Vinicio. Un basso rilievo, ma di grande pregio artistico, realizzato in 2 giorni e 2 notti con una lavorazione del cemento difficilissima, lottando contro i rapidi tempi di presa, quasi a voler consolidare quel presente di speranza e di solidarietà. Oggi, 60 anni dopo, quelle figure immobili nel cemento si muovono per ricordarci un passato alla cui costruzione contribuirono tutti, ciascuno in ragione della propria disponibilità, ma tutti con la consapevolezza di realizzare qualcosa di importante per noi, per i figli di quel cemento. Rinascita. A pensar questa gente, io mi sento più forte che a guardare lo specchio gonfiando le spalle e atteggiando le labbra a un sorriso solenne. Rinascita. La Casa del Popolo di San Vito non è una semplice casa, anche nel nome. È il simbolo della socialità prima comunista, poi lavoratrice e ora democratica, ed è il punto di partenza per una società globale. Sarebbe sbagliato pensare alla Casa del Popolo come a un santuario. Al contrario, deve diventare un software aggiornato della vita civile, aperto, aperto alle proposte che vengono dal basso, dai giovani e anche dagli extracomunitari che neanche conoscono tutta questa lunga storia, ma che di default fanno parte della nostra comunità. Ora, a qualcuno potrebbe venire spontanea la domanda: che senso ha oggi una casa del popolo? Ma non sarebbe più utile un supermercato piuttosto che un insediamento residenziale, una palestra per il fitness? Certamente. Se lo sviluppo di un paese lo si pensa legato ad una material production, ma se invece noi pensiamo, no, invece ad un invisible production che si crea in un luogo di aggregazione e ci sforziamo di ricordare ai giovani le lotte che hanno fatto i nostri vecchi e che senza impegno non si va avanti, allora noi avremo con rinascita una nuova, la vivremo come una nuova fonte di rinnovamento per il nostro futuro. Che ne dici? A me piace, è un bel discorso. Avevi ragione. La parentesi di poesia ci sta benissimo. Una spruzzata di cultura. Di chi è più? Ah, non mi ricordo, l'ho trovata su internet. Ah. Secondo me il discorso sugli extra è un po' troppo politically correct. No, è giusto farli sentire parte della comunità. Ancora di più? Ci stanno fottendo tutti i lavori. Oh sì, beh, allora l'anno prossimo vai te a raccogliere i pomodori. Sì, ti immagino. Non ti ci vedo tutto sudato. No, io l'estate prossima sono sull'atollo tra le palme e i tucani. Anch'io non ce la faccio più, non vedo l'ora di staccare la spina. Quando abbattiamo la casa del popolo? Ma adesso occupiamoci dell'anniversario, eh? Abbiamo una marea di happening da organizzare, ci sono un sacco di sovvenzioni da spendere per questo evento, adesso non possiamo. Sì, tenerla in vita a lungo ci costa. Ci costa, lo so, eh? Certo che anche sventrare case sane. Abbiamo già fatto questo discorso, abbiamo già il progetto e dai. Ah, lo so, ma mi sembra un po' come licenziare dei dipendenti capaci. Non è la stessa cosa. Dimmi a cosa ci serve, tenere in piedi un gerontocomio. Ah, sì, vabbè, lo so, ormai ci vanno solo i vecchi militanti. Sì, ancora finché era la sede del PC. Adesso che neanche il partito esiste più. Esiste ancora, si sta trasformando. Sì, come Mickey Rourke. Ha cambiato look. Ma non ha più bisogno di una sede, c'è il sito web. Dice. Ma allora perché ci accusano continuamente che non creiamo un dibattito, che non li ascoltiamo? Va bene essere democratici, ma non li possiamo ascoltare tutti, eh? C'è la pagina con le FAQ. Oh, non essere volgare. Cosa vogliono di più? Senti, e se cambiassimo look anche alla casa del popolo, si potrebbe salvare. In che modo? Ma cambiamo l'ingresso, entriamo dal retro così non dobbiamo entrare dalla strada. Ah, non basta. E se facessimo una tettoia, in plexiglass ferro, chiamiamo un po' Calatrava. No, un altro nome. Mario Botta. Dico casa del popolo, suona male, è anche un problema di comunicazione. Ah sì, casa del popolo suona old fashioned. Invece la comunicazione deve parlare a tutti, invece senti, casa del popolo, cosa parla solo agli antichi? La casa dei compagni? Sì, di merenda. Ah vabbè, ma se perdiamo anche lo zoccolo duro? Zoccolo duro? Ormai è un infradito. Sì, ma se perdiamo anche loro, a salute. No, vabbè, dai, loro no. No, la casa della gente. La casa di tutti. Casa amica. Troppo femminile. Vabbè, così salutiamo anche le quote rosa. Casa... No, è il tutti che funziona. Sì, vicini per tutti. Cos'è, una penitenza? Una cattiveria. Tutti insieme? Sì, appassionatamente, dai, no. Tutti a schiera? Schierati. No, troppo politica. Poi sì. sembra un cognome. Senti, signori schierati, attesi in portineria. Senti, vicini a schiera. No, tutti a schiera. L'hai già detto. Case a tutti? Case a schiera. Magari. Case a schiera suona democratico, sì. Ma un po' ovvio. No. Case su tutti? No, teso. Tutti? Sì, dindonda. Per tutti. Case per tutti. Per tutti, bello. Bello, funziona anche come slogan. Case per tutti, la moltiplicazione, no? È anche un concetto cristiano. Sì, slogan e programma in un colpo solo, fantastico. Case per il popolo, no, case per tutti. Case per tutti comunica esattamente quel che vogliamo fare, quindi è perfetto. Sì, è perfetto. Lo sai che i vecchi militanti si opparranno. Vabbè, gli diremo che la storia è fatta di demolizione e di ricostruzione. Sì, cosa gli ricostruiamo? Le case per tutti, 10 case al posto di una. Oh, ma vuoi mettere il numero? È potenza, eh? Ah, vabbè, ma sì, ho capito, no, ma sti vecchi dove andranno? Facciamo un centro civico. Oh, ma con che soldi? Siamo pieni di debiti. Vabbè, intanto promettiamolo, magari lo mettiamo nei 12 punti del programma. Ah, sì, ma vorranno vedere il progetto. Perché? No? Capiscono d'architettura? Ma no, perché vorranno una garanzia. Vabbè, noi prendiamo tempo. Senti, mica durano in eterno poi. Poi, se durano, la prossima amministrazione, cioè noi, bloccherà il progetto. Che ma vedrai che faranno un comitato per impedire la demolizione di Rinascita. Che paura, solo perché gli togliamo la tombola? Ma no, perché gli togliamo la memoria. Ma quale memoria? Hanno tutti l'Alzheimer. Anzi, gli va grassa che in cambio noi gli diamo una schiera di case per i nipoti. E poi, senti, detto tra noi, è antidemocratico tenere in vita un posto per 4 vecchi e 20 extra. Le nostre case per tutti segneranno un passo avanti nella nostra comunità, almeno per il prossimo anno, dai. E poi si vedrà. Ma senti, ma poi si vedrà. Ma dopo tutto non dipende mica da noi. Non dipende da noi, no. Da chi allora? Dal mercato degli immobili.